qui finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. E 53 minuti primi le frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana e laziale. E quindi andando a ripescare sul vecchio archivio quello che era andato perduto, c'era anche proprio un, come si dice, un serial, uno di quei dei colossal cinematografici, no? Alla ricerca dell'archivio perduto, alla fine è tornato. Con tutte le facezie che, almeno per quanto riguarda lo spazio che ci compete, ivi contenute. Per cui, facezie a parte, vi ricordiamo che siete ad ascolto di Radio Onda Rossa e che Radio Onda Rossa non campa d'aria, dicevamo tanto tempo fa. Campa delle nostre facezie, ma invece vive grazie al vostro contributo che non ci fate mancare, che ci fate pervenire immancabilmente dal 1977 fino a oggi. Ed è grazie a voi, grazie al vostro contributo, che la radio è rimasta indipendente, libera, autonoma, nella possibilità di non fare come tanti altri media, quasi tutti. Che tutto sommato si vendono al miglior offerente, perché tutto sommato da lì che prendono lo stipendio. E che infine tendono a, per quanto alle volte ci siano anche buone intenzioni, a edificare, a rafforzare quel luogo comune che è tipico della comunicazione delle società di massa, e quindi essenzialmente a dire tutti le stesse cose, come si dice, la voce del padrone. Oppure a dire un sacco di fregnacce, perché non si ha la possibilità dell'autogestione, del dibattito, della ricerca continua. Invece proprio grazie al vostro contributo, contributo che avviene non solamente, lo diciamo sempre, nella mera forma economica, ma un contributo stringente di dibattito, di analisi, di commento, di critica, che spesso ci perviene, e allo stesso tempo anche quando ci venite a portare i soldi, questa cosa avviene e ci fa molto piacere. Tant'è che questa formula funziona dal 1977, oltre ovviamente a tutte le iniziative che la radio mette in campo proprio nello spazio fisico, nei luoghi che la radio, che ospitano la radio per le proprie iniziative, le proprie feste di sottoscrizione e di finanziamento, un altro luogo, un altro posto dove abbiamo il piacere di incontrarci, discutere e conoscerci con voi tutte e tutti. lamentiamo perciò nel frattempo che fra pochissimi inizierà la campagna di radioabbonamento, che anche in assenza della campagna di abbonamento la radio ha le spese, quindi è importante il vostro contributo, seppur piccolo ma costante. 61 80 40 01 il numero del conto corrente postale, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 00 185 Roma San Lollo, via dei Volsci 56. Onda Rossa @ondarossa.info per le vostre comunicazioni email, poi sapete benissimo usare i social e anche quelli ci servono per comunicare, per conoscerci. @ondarossa.info per molestare il sottoscritto. 06491750, detto così coi puntini, dal 77, pure questo è il numero telefono di Radio Onda Rossa. T-minus 15 seconds, guidance is internal. Eddie Grass, Ruben Romero. Simon Moon, Tom Davis. Lasciavi Fu Manchu, non si allontanarono molto, almeno da queste prime note, dai Fu Manchu, e andarono a affrontare appunto in... la nuova formazione che si chiamava Nebula, ammiccando così allo spazio siderale profondo. E stasera ce ne andremo su questi lidi, ve lo diciamo, non ci allontaniamo molto da questo tipo di sonorità. La notizia del giorno l'avete sentita un po' più dettagliatamente di quelle poche note che vi potrò dire io durante il redazionale di questo pomeriggio, e che è arrivata appunto la sentenza sull'istanza di estradizione per Annan, che però permane nel carcere dell'Aquila, perché c'è stata la beffa, cioè ieri è arrivato insieme ad altri tre palestinesi, tra l'altro suoi coinquilini, insomma. Un nuovo mandato di arresto, per cui, come recita proprio la sentenza dei giudici che si dovevano pronunciare sull'estradizione di Annan, se non agli arresti per altri motivi, per altre cause. 10 minuti primi, 06 491 750, recapito telefonico, questa è Radio Onda Rossa, questo è 25 Clock e questi erano i Good is Astronaut, Darlene Randa. Da qui abbiamo ascoltato Signal Ray, dicevamo di Annan e della guerra ipocrita contro i palestinesi. Sapete, la parola guerra è bandita un po' dal lessico normale. Chi fa la guerra è sempre un po' ipocrita, non dice mai che c'è una guerra, che fa una guerra. È il segno del politically correct. Molti, molti anni fa, nel secolo scorso e prima ancora, si chiamava l'ambasciatore dello Stato. E gli si consegnava la dichiarazione di guerra, che era un atto formale. Oggi questa roba qui non si fa più, perché ovviamente è antistorica. Ma questo non ha impedito alle guerre di esserci, di moltiplicarsi, di essere disastrose. E non sempre il lessico nasconde delle verità, ma nasconde il più delle volte delle ipocrisie. Noi cerchiamo di essere più trasparenti possibile e vi diciamo che queste sono le note di questa notte. Lavoro del 2013 per Good Is Astronaut. Un po' una dichiarazione su una ipotesi di provenienza della specie umana. Things will never be the same. E queste urla e questi applausi stanno a significare che si tratta di un live. E quindi, dopo aver ascoltato Spaceman 3, che si chiamavano all'epoca Spaceman 1, Spaceman 2 e Spaceman 3, e i tre componenti in arte Peter Sonny Boom Camber, Jason Pierce. E poi tutta una sequela di altri che suonarono negli Spaceman 3. Dal borgo di Rugby in Inghilterra, e che per un po' di anni, negli anni 80, diedero vita a queste lunghe e ripetitive, ossessive cavalcate psichedeliche e spaziali. E poi abbiamo ascoltato Dead Meadow, invece, da Washington DC. Jason Simon, Steve Kill e Mark Laughlin. Li abbiamo visti parecchi anni fa in un bel concerto, insieme a Giollelli, completezza, e al buon Mati. Un concerto come quello che state ascoltando, invece, registrato in New Jersey nel 2002, a Hoboken per l'esattezza. Carl von Clausewitz, proprio in virtù di quanto dicevamo prima, diceva che la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi, e per questo, dicevamo prima, si seguivano delle formalità. Notavano proprio il potere. Della costrizione e della forza, la violenza come elemento che plasmava il mondo. O almeno questo era nella retorica ufficiale, o magari questo era semplicemente nella lettura della storia, se volete, caustica, cinica o machiavellica. Eppure scarna, eppure non ipocrita, dicevamo prima. Noi pensiamo invece che la musica sia la continuazione del nostro stato d'animo con altri mezzi. E proprio per non parlare, per non voler parlare di quella brutalità e quell'istinto di sopraffazione che denota il fondo della politica e quindi della guerra, lasciamo parlare Jay Mascis, che è colui che un po' ha tenuto in vita per 40 anni Dinosaur Junior. Del 2016 che si chiamava Give a Glimpse of What You're Not, dicevamo, per non parlare di guerra, Love Is Dinosaur Junior.

23:52 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa. 25 o'clock, controlla. E in ordine abbiamo ascoltato Lira del Baccano. Paradox or Glass parte 2. Norazor for Okan. Debitamente manipolata. Poi Cacemira, Overpopulation. Di seguito Fuzz, Nothing People. Ed infine anzi, prima Farfurung, You Will Kill For Me, e poi dopo Fuzz. Anzi no, abbiamo detto giusto. Farflung ora pronto sul CD dall'altra parte. Kill For Me. I'm minuti dopo la mezzanotte, quindi dopo aver ascoltato Annau Mortal Orchestra, e cioè la psichedelia di provenienza antipodica, non antipatica, e cioè dalla Nuova Zelanda, Ruby Nielsen, Jacob Portrait, Kobe Nielsen, invece no, c'era Georgi Rogov alla batteria su questo lavoro che si chiamava 2. Continuiamo il nostro girovagare fra confuso in uno spazio agognato, in un cosmo da conquistare. Forse proprio perché questo pianeta è marcio, questo dove viviamo, inquinamento, bizzarrie climatiche, cambiamenti epocali che per ora subiamo, non c'è benché ci siano i segni, un un mondo dal basso che possa cambiarne le rotte. Appunto, Jobbia ci dicono: "This world was being watched closely." Onda rossa 0649175087.9 della modulazione di frequenza. Jobbia a 25 o'clock. Qualche secondo. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man. Yet as mortal as those. We know now that as human beings, visited themselves about their very mind, power that's the beast of the jungle, intellect.

39 minuti dopo la mezzanotte. 25 o'clock, Radio Onda Rossa. E quindi vi abbiamo lasciato con Jobbia. The world was being watched closely. E poi Goat. Got Slaved. E poi Try of Two Tales 2000 Oscillate. Ancora The Sonic Down Summer Voyage. E abbiamo chiuso con Velester, che abbiamo presentato la scorsa settimana, la traccia conclusiva del demo 2024 avanti Cristo, che si chiama Templi. Ed ora sotto la nostra voce Oneida Waponari, l'armamentario. Siamo tutte e tutti i compagni, le compagne, usate tutti i caratteri che volete, alla fine come vi sentite più a vostro agio. Che hanno partecipato alle iniziative di sabato e di domenica, di sabato ad Aure Marco, domenica a Terni. Programmazioni in diretta di Radio Onda Rossa finiscono con noi. Vi terrà compagnia per tutta la notte la compagna automatica Sonata con le sue estroverse selezioni musicali e le repliche bizzarramente assortite. Si riprende la diretta con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina, i redazioni della mattina, domattina appunto, a partire dalle 8. Pausa per l'ora di pranzo, alle 14 tutta scena cinema, alle 16 Attica Blues, oltre alla Black Music, alle 17 La Schiena del Sol, alle 20 Tabula Rasa, la trasmissione sui libri di Radio Onda Rossa, e a chiudere I Cuginetti di Apostasia. Il nostro saluto più importante va, come di consueto e come ci piace fare, abbiamo bisogno di salutare tutte e tutti coloro che ci ascoltano in condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, centri di detenzione di per migranti, detenzioni di vario tipo e limitazioni di vario tipo, quali decreti amministrativi, quanto ci riguarda, mercoledì prossimo di marzo non ci saremo, salteremo quindi il 25 o'clock di mercoledì 20 marzo, ci risentiremo il 27 di marzo. Chissà in quale formula, chissà. Non ci resta che andarsene sotto la luna comunista, bella a tutti e tutte, dai! again tonight will win. Dreams, I'll share our dreams under a communist moon.